Investire informati. Lo spread, vediamo quello che accadrà sullo spread. No, non la preoccupa comunque. Io penso che l'Italia abbia la possibilità di entrare nel futuro ed è il motivo per il quale secondo me questa è una grande occasione. Perché poi sul dibattito sul governo che verrà si fa con le elezioni, non con il referendum. Cioè alla fine chi prende, chi vota, chi sceglie, si fa con le elezioni. E di conseguenza è evidente che il mondo si aspetta che l'Italia scelga il futuro, ma che cosa si aspetta il mondo è meno importante di che cosa decideranno i cittadini. Quindi, senta, pieno rispetto per la gente italiana che voterà e deciderà. Un Matteo Renzi a 360 gradi ieri ai nostri microfoni, ai microfoni di Effetto Giorno di Simone Spezia. Insomma, il tema lo avete sentito con la declinazione che ha scelto il Premier: mercati e variabile politica. Le prossime settimane saranno caratterizzate, come vi dicevo, dalle attese, dalla reazione agli appuntamenti elettorali in programma, presidenziali americane e referendum italiano. Questi due dei tanti argomenti finanziari che campeggiano in questi giorni sui giornali, che leggiamo questa mattina con Andrea Guazzi, responsabile della divisione Wealth Management di Banca Mediolanum. Ben trovato, buongiorno. Grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie a lei. Hai visto che ci fanno anche i complimenti questi oggi? Non richiesti, ma ben accolti. Grazie. Allora, cosa dobbiamo aspettarci e quanto un risparmiatore deve guardare a questi eventi, dottor Guazzi? Insomma, perché li stiamo un po' stressando, i nostri ascoltatori / risparmiatori / cittadini, su questi argomenti, come se dalle sorti del voto americano dipendesse chissà quale scenario finanziario. Un po' di preoccupazione c'è. Sì, in effetti il risparmiatore è molto preso dalle notizie giornalistiche, per cui abbiamo queste due date a brevissimo, l'8 novembre e il 4 dicembre, l'8 novembre le elezioni americane e il 4 dicembre. L'eventuale referendum, dato che c'è una discussione in corso. In effetti non c'è mai stata così tanta difficoltà nel capire quale sarà l'esito finale di queste elezioni, quindi è comprensibile che ci sia un attimo di apprensione, un attimo di dubbio. Fino a poche settimane fa c'era un esito quasi scontato da parte di uno dei due candidati, cioè della signora Clinton. Proprio recentemente, ieri, mi sembra che siano usciti dei dati su sondaggi nell'Iowa, eccetera, che addirittura mettono in di pochi punti di vantaggio su Trump. In realtà abbiamo visto anche con altre crisi recenti molto speculative, è possibile che l'andamento della volatilità aumenti, ma non cambieranno sicuramente i dati fondamentali delle economie. Nella stessa elezione americana poi il vincitore comincerà a lavorare e a stemperare quelle che sono le sue reali volontà a gennaio dell'anno prossimo. Per cui ritengo che la più grande attenzione è sulla volatilità di breve, che si è già manifestata in questi giorni, come lei ha detto giustamente prima, ma soprattutto la volatilità non è sempre una cosa negativa, ma anche una cosa positiva, perché, come magari avremo modo di parlare più avanti, la volatilità è un'occasione anche di investimento, sempre in un'ottica di lungo periodo. Certo, che deve essere comunque delegata all'investitore professionale, al gestore, al cui poi magari un piccolo risparmiatore appunto può rivolgersi per cogliere queste opportunità di mercato. In ogni caso, che sia l'uno o l'altro candidato ovviamente alla guida degli Stati Uniti d'America dalla prossima settimana in avanti, in realtà molta attenzione sarà focalizzata sulle scelte di politica monetaria, sulla Federal Reserve, su quello che verrà fatto a dicembre. Ieri c'è stata una nuova riunione e, come era nelle attese, tutto è rimasto fermo, naturalmente, perché ogni decisione necessariamente sarà presa più avanti. Un'informazione di servizio per i nostri ascoltatori, se no ce la dimentichiamo: il 18 novembre qui al Sole 24 Ore, nel nostro auditorium, siete tutti convocati, non perché c'è Carlo Genta con lo staff della redazione sportiva, ma perché ci siamo noi di Investire Informati, cioè Investire Informati Live. Per tutti coloro che vogliono partecipare dovete andare sul sito di Radio 24, c'è un piccolo format da compilare con poche informazioni, ma chi vi darà il diritto appunto ad accedere al nostro bel palazzo qui di Renzo Piano in quella giornata. Si alterneranno sul palco gran parte degli esperti che si sono avvicendati appunto ad Investire Informati in questi mesi. Faremo un punto della situazione. Naturalmente io chiamerò sul palco anche Nicoletta, che ci dirà un po' che cosa ne pensa di tutto questo. Veramente? Non vuoi venire? Te lo sto dicendo con un mese di anticipo, così dai, sei pronta. Preparo, puoi preparare mi preparo, il discorso. Mi farò suggerire qualche pensiero intelligente. Allora, poi pronti perché fra un po' c'è anche il domandone. Intanto 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, se volete interagire con noi sui temi finanziari del momento e anche sulle vostre scelte di investimento, se volete un po' raccontarcele per capire anche se sono... Naturalmente ognuno fa le sue scelte, poi ne parleremo, dottor Guazzi, perché c'è il rapporto Consob sulle scelte degli italiani, sul loro grado di conoscenza finanziaria, però le scelte finanziarie vanno fatte in relazione ai propri obiettivi finanziari. Alla fine la politica deve interessarci relativamente, solo un po'. Il giusto. Che ci serve per sfruttare la volatilità eventualmente, certo. Però senza pianificazione non c'è investimento. Ecco qua, e dopo ne parleremo, questo tema faremo un bel focus dopo le 11.30. Adesso volevo segnalare ai nostri ascoltatori quello che ha scritto un altro collega del Sole 24 Ore, Vito Lops, due giorni fa, e ricordava che un anno fa l'indice di borsa italiana, il FTSE MIB, quotava 22.500 punti, oggi è sotto del 25% rispetto a quei valori. Il prezzo del petrolio era a $46 al barile e siamo sui livelli praticamente che sono stati ritoccati proprio in questi giorni. L'inflazione dell'area euro era allo 0,1%, molto più bassa dello 0,5% attuale. Il rendimento dei BTP a 10 anni era dell'1,76%, esattamente quello toccato di nuovo due giorni fa, e le quotazioni dei titoli di Stato e petrolio praticamente si sono riportate sugli stessi livelli di un anno fa. Non è così invece per Piazza Affari. Allora, ho rifatto un po' questa ricostruzione, dottor Guazzi, per chiederle secondo lei che cosa significa questo scenario, esserci riportati sulla situazione appunto di 12 mesi fa, e alla luce di questi elementi come si sta caratterizzando quest'ultima parte dell'anno dal punto di vista delle dinamiche finanziarie? Ma spero di poter rispondere bene, nel senso che l'ultima parte dell'anno, per gli effetti che anche abbiamo, di cui abbiamo parlato in precedenza, è più un'area relativa alla sfera di cristallo che alla pianificazione finanziaria. Ma certamente possiamo anche dire delle cose che magari sono meno nobili o hanno meno attenzione dei giornali, come i dati macro, perché noi ci focalizziamo sempre sul breve termine e un po' meno sul lungo termine. E i dati macro ci dicono che le prospettive di crescita, o qui una tabella del Fondo Monetario Internazionale, quindi assolutamente la più autorevole in assoluto, di rispetto di ottobre 2016, ci dice che il mondo ha una crescita complessiva, con aree chiaramente assolutamente differenziate, che va dal 3% del 2016, anzi 3.1, al 3.1 e al 3.4 del 2017 del 2018. Allo stesso tempo vediamo una crescita forte dei paesi emergenti. La dinamica delle borse italiane è una dinamica un po' particolare, come diceva prima. Per le banche siamo che... meno 19 rotti per cento, starà nel dato di stamattina, perché siamo monofocalizzati su due o tre settori, quattro grandi aziende statali e le banche che, come sapete, stanno soffrendo. Ma anche in questo caso, una volta risolti i problemi strutturali, perché no, potrebbe anche essere una borsa da tenere in considerazione. Ma abbiamo visto in segni positivi le borse mondiali, abbiamo visto in segni positivi l'indice di Hong Kong, sto parlando di variazione annuale, abbiamo visto il segno positivo sull'India, abbiamo visto segno positivo sui mercati emergenti. Quindi, nell'ottica dell'investimento e non della speculazione di breve periodo, è molto probabile riuscire a guadagnare, sempre con diversificando e decorrelando parzialmente i nostri tipi di investimenti. I dati macroeconomici sono positivi anche sulla crescita utili, sulle attese di crescita utili. C'è stata una bellissima rappresentazione che parlava di chiari scuri, no? dei pittori impressionisti, in cui dallo scuro di certe immagini si poteva poi vedere la luce all'orizzonte. Diciamo che è un momento in cui bisogna essere molto bravi, molto professionali, molto attenti, affidarsi a qualcuno di particolarmente esperto, perché, ripeto, ci sono tantissime opportunità e certo, non bisogna vedere il bicchiere solo mezzo vuoto. Ha fatto bene a ricordare le stime di crescita dell'economia mondiale rilasciate dal Fondo Monetario Internazionale e a rimarcare l'importanza anche dei dati macroeconomici, perché se abbiamo queste proiezioni positive e un contestuale andamento negativo di borsa è perché in prospettiva, in virtù di queste buone indicazioni macro, i tassi dovranno aumentare perché si andrà verso una normalizzazione, le banche centrali non potranno più continuare ad essere così generose in termini di politica monetaria espansiva, e questo è lo scenario che alla borsa piace meno. Ecco perché si sta probabilmente anche un po' riaggiustando nei suoi valori in questi giorni. Quindi non spaventiamoci, guardiamo, come diceva giustamente il dottor Guazzi, magari il bicchiere mezzo pieno, pur prevedendo anche il fatto che dovremo tollerare ancora un po' di volatilità. cuore e denari. Chi di voi si ricorda questo film? Sì, no, non è questo il domandone. Allora, andando anche oggi a caccia di curiosità legate a questi erratici mercati finanziari, vi riproponiamo Ritorno al futuro. Sentiamo sempre parlare di globalizzazione, rivoluzione tecnologica, anche nel mondo degli investimenti si stanno facendo largo i robot advisor. E poi eccesso di risparmio, disinflazione che torna lentamente a diventare inflazione, poi una bella bolla obbligazionaria. Sembra la cronaca dell'attualità, dottor Guazzi, no? Mediolanum, è così? È così. Sembra così. In realtà io le ho raccontato uno scenario che si è manifestato ben 120 anni fa, come ha scoperto Enrico Marro del Sole 24 Ore. Enrico, buongiorno. Buongiorno, il nostro cacciatore, ecco, di curiosità finanziarie. Allora, raccontaci un po', dove abbiamo riportato questa macchina del tempo e perché, come mai? Allora, siamo andati, anziché ritorno al futuro, ritorno al passato. Siamo andati indietro di 120 anni per scoprire, assieme a Lawrence Mutkin, che è un capo strategist di BNP Paribas, ma anche assieme a Credit Suisse, che aveva dedicato una ricerca a questo tema, che c'era già stata una globalizzazione. Ed era stata appunto 120 anni fa. Per la prima volta, in sostanza, le barriere commerciali si erano abbassate e grazie anche alla tecnologia, a una rivoluzione tecnologica in qualche modo analoga a quella di oggi, ma non digitale, più legata ai trasporti, ecco che il mondo aveva scoperto il libero scambio. I commerci mondiali erano naturalmente si erano incrementati e proprio come avviene oggi, grazie alla tecnologia, si era in sostanza ridotta l'inflazione, anzi si era quasi andati, come dicevamo, in disinflazione, deflazione. I prezzi dei beni erano cominciati a scendere. Insomma, era uno scenario che in qualche modo somigliava a quello di oggi, anche per una terza ragione che ha scoperto questo strategist di BNP. Oggi noi sappiamo il quantitative easing, e cioè il fatto che, detta proprio in parole molto povere, le banche centrali stampano denaro e lo immettono nel sistema. Allora, si era nel periodo del gold standard, del sistema legato all'oro, ci furono delle importanti scoperte minerarie in Sudafrica e quindi in qualche modo è come se attraverso questo metallo prezioso che era entrato nel sistema economico si fosse vissuto un quantitative easing anche allora. Poi però purtroppo le cose sono cambiate e speriamo che le analogie non siano esatte ora come allora. Perché diciamo questa promessa di allora, stiamo parlando del 1890-96, di quegli anni, gli anni che poi sfociarono nella Belle Époque, questa promessa di prosperità, ricchezza, anche pace, perché ricordiamo che l'Europa stava vivendo uno dei più lunghi periodi di pace prima delle guerre mondiali, ecco che questo periodo felice in qualche modo si è interrotto. Si è interrotto per una serie di tensioni sociali, tensioni geopolitiche, per il ritorno del protezionismo. Si arrivò nel giro di una ventina d'anni alla Prima Guerra Mondiale, Enrico. Ecco, volevi arrivare a questa conclusione. Tu ci volevi arrivare molto lentamente. Insomma, grazie per averci riportato indietro di così tanto. In due secondi, Enrico, ma secondo te c'era qualche società che analizzava il grado di conoscenza dei temi finanziari della popolazione? Perché noi adesso parleremo del recente rapporto Consob, appunto, che ha invece monitorato quelle che sono appunto le conoscenze degli italiani. Lì indagava nessuno, secondo me. Anzi, ti suggerisco di andare a caccia anche di informazioni come questa. Poi ce le racconti. Direi proprio di, diciamo, lì a quell'epoca penso che il massimo che poteva essere il carabiniere che andava a casa della famiglia dei contadini per chiedere se per caso il bambino poteva andare a frequentare almeno qualche giorno di elementare. Grazie ad Enrico Marro, ci risentiremo probabilmente nei prossimi giovedì di Investire Informati. Buona giornata Enrico, a presto. Buona giornata. Allora, dottor Guazzi, l'ho ricordato, continua a far discutere questo rapporto 2016 della Consob che conferma il basso livello di conoscenze finanziarie appunto delle famiglie italiane e dei risparmiatori. Poco più del 40% degli intervistati, ne ricordo qualcuno di questi elementi, sarebbe in grado di definire correttamente alcune nozioni di base come inflazione e rapporto fra rischio e rendimento. Concetti più sofisticati che riguardano le caratteristiche dei prodotti più diffusi invece registrano percentuali anche inferiori. Più del 20% degli interpellati dalla Consob dichiara di non avere familiarità con alcuno strumento finanziario, il restante 80% indica più frequentemente i titoli del debito pubblico e le obbligazioni bancarie, seguiti da azioni e fondi azionari. Allora, anche voi intermediari, consulenti, avete la percezione di avere a che fare con risparmiatori che non sanno nulla o quasi? A me sembra un po' forte, insomma, questo dipinto, questa fotografia che la Consob scatta. Sì, è un po' forte se il taglio o la lettura che noi diamo lo diamo a un operatore, ma a un risparmiatore questo rapporto secondo me disegna la nostra esperienza, la nostra storia. Io sono stato colpito anche da questo bellissimo approfondimento dell'amico del Sole 24 Ore, perché la storia si ripete sempre, ma sostanzialmente siamo ripetitivi ma con contesti differenti. Ora noi abbiamo la capacità anche di disegnare queste traiettorie, queste esperienze, valutandole negativamente quando probabilmente il risparmiatore non è che non può e non deve avere un'esperienza finanziaria così ampia. Cioè, la cultura finanziaria, l'informazione saranno un processo continuo e io immagino che se avessimo più rapporti in decenni diversi avremmo delle esperienze completamente diverse. La forza di queste cose è che il consulente finanziario, chi sta vicino, l'esperto, quello che è identificato in altri campi come il medico, ma io vorrei dire come il personal trainer, non mi viene in questo momento un altro esempio, perché il medico è associato a cose negative, guardiamo cose positive. Se una traiettoria di lungo periodo io devo personalizzarla, devo cercare una strada giusta, devo pianificarla in maniera differente e quindi ho bisogno di qualcuno che sia esperto di ingredienti. Un altro esempio che mi piace è quello del ristorante, dove gli ingredienti sono nominalmente gli stessi, qualitativamente no, perché ci sono ingredienti e ingredienti, ma è lo chef che alla fine ti dà la risposta al piatto che tu preferisci, valutando anche le tue allergie, parlavamo prima di salute, o altri elementi. Ecco, lo chef è un po' il consulente finanziario, ritengo che sia sbagliato che chi va al ristorante diventi poi uno chef, e quindi ognuno deve fare il suo mestiere. Oggi fare i singoli mestieri professionali è molto complicato, ci sono molte più opportunità, ma lasciamo fare a ciascuno il suo. Certamente la coscienza finanziaria deve essere sui comportamenti, sulle analisi rischio-rendimento, più che diventare tutti macroeconomisti o economisti e parlare di inflazione, disinflazione, di inflazione importata con la svalutazione o altri elementi assolutamente complessi. Che non siamo in grado di cogliere fino in fondo, naturalmente. O parzialmente. Certo. Allora, che cosa facciamo qua? Io direi, prima di andare al traffico, di fare il domandone. Poi ti chiedo se ti sono piaciute, Nicoletta. Andiamo a queste similitudini molto, tra consulente medico che abbiamo fatto più volte, consulente chef non c'era mai capitato, ma questa mattina abbiamo sperimentato anche questo. Il domandone di oggi, allora, c'è una persona italiana molto importante che siede su uno scranno altrettanto rilevante da qualche tempo, è Mario Draghi, che è presidente della Banca Centrale Europea, quindi non vi chiedevo in realtà nessun compleanno specifico, solamente come dire un po' un anniversario di ruolo. Da quanti anni Mario Draghi è presidente della BCE? Proprio ieri c'è stata questa sorta di piccola celebrazione a Francoforte, di cui scrive Alessandro Merli sul Sole 24 Ore di oggi. 800 24 00 24 se volete la guida alla rottamazione delle cartelle fiscali, perché oggi io regalo quella. Allora, il traffico, torniamo tra pochissimo. È giovedì, c'è Investire Informati e con noi questa mattina c'è Andrea Guazzi, responsabile della divisione Wealth Management di Banca Mediolanum. Ma allora, stavamo commentando un rapporto molto importante che è uscito nei giorni scorsi, il rapporto Consob sulle conoscenze finanziarie degli italiani, sulle loro competenze finanziarie, che qualche volta tendono invece anche a sopravvalutare, ne hanno Dottor Guazzi, una percezione distorta, lo dice circa l'85% degli intervistati, che si attribuisce capacità nella media con riferimento alle decisioni di risparmio, amministrazione del bilancio familiare e controllo delle spese inutili. Emerge anche da questa indagine che le conoscenze finanziarie però non sempre mettono totalmente al riparo da errori, perché anche gli individui con un livello di conoscenze elevato sembrano esposti alla cosiddetta erronea diversificazione, cioè rivelano di non comprendere fino in fondo, le, forse lo diceva anche poco fa, la relazione rischio-rendimento. E comunque sempre lì torniamo, e lo dico anche a Nicoletta, alla diversificazione questa sconosciuta. Questa sconosciuta o parzialmente sconosciuta, beh, qui mi riallaccio alla storia. Beh, io sono un appassionato, per cui... ecco perché spesso, le è piaciuto tanto l'articolo di Marro. Allora. Moltissimo, queste cose mi piacciono veramente, perché ci insegnano che il mondo è veramente... I corsi e i ricorsi storici di Vico, d'altronde... Allora, guardiamo, questo è un rapporto italiano, partiamo da questo. Allora, una piccola analisi storica. Noi siamo stati abituati come risparmiatori, quindi in questo caso mi metto la veste di risparmiatore, ad avere più o meno negli ultimi decine di anni dei rendimenti che ritenevamo elevati sulla parte dei titoli di Stato, che ritenevamo sicuri, ovviamente perché governativi, e una speculazione per chi era più avvezzo o chi faceva parte probabilmente di questo 85% all'investimento diretto in un titolo, che poteva essere un'obbligazione bancaria specificatamente e più comunemente, o anche un'azione. Quindi la storia che mi ha visto anche come esperienza mia personale lavorativa è quella di titolo di Stato e sostanzialmente investimento diretto sulla singola azione o su pochissime azioni. Sì. Poi c'erano gli speculatori e quelli che si chiamavano un tempo i cassettisti, no? Quelli che guardavano nel lungo periodo. I fondi comuni, ricordiamo che sono nati con un decreto legge del 1983 e hanno preso piede le prime SGR nel 1985, che è veramente ieri. Abbiamo festeggiato il trentennale, esatto, infatti, da pochissimo. In Italia, perché chiaramente negli Stati Uniti hanno una storia decisamente diversa. E questa è la nostra storia, per cui noi ci ritenevamo capaci di fare questo. Poi non importa se guardando i tassi reali, probabilmente quando i titoli di Stato o i BTP o i CCT erano il 12, l'inflazione era il 14, quindi realmente c'era una perdita del 2. La percezione dell'individuo di portare a incassare un rendimento di quella cifra là, esatto. Oggi i tassi sono a 0, o all'1%, però l'inflazione più o meno è uguale, è 0,5, 0,7, per cui i tassi reali sono addirittura positivi o zero, prima erano addirittura negativi, ma non si percepiva questo, proprio perché, come dicevamo prima, ognuno deve fare il suo mestiere. E questa storia ci porta a questo tipo di livello. Non abbiamo mai percepito il rischio rendimento. Io ricordo però che anche nella storia recente, quindi quando c'è stato il vero attacco allo spread, quando la parola spread è diventata famosa... Estate 2011, non esatto, me la ricordi. Bravissimo. ci sono stati dei momenti in cui anche i nostri titoli di Stato hanno avuto tecnicamente una differenza di diversi punti percentuali tra denaro e lettera, che vuol dire acquisto-vendita. Però è durato un mese, quindi il risparmiatore un mese e mezzo, non se n'è accorto. Quando noi oggi facciamo e chiediamo di fare portafogli estremamente diversificati con un rischio e una prospettiva di rendimento in un orizzonte temporale, in realtà andiamo a diminuire questo rischio, perché prendiamo tantissimi titoli e soprattutto non facciamo più l'errore di fare una scelta sbagliata sul singolo titolo che per motivi esogeni o endogeni, quindi all'interno di scelte societarie, parliamo di qualche esperienza italiana di qualche fallimento, non voglio fare nomi, ma insomma sia nel settore alimentare che nel settore bancario abbiamo numerosi esempi, e a questo punto si va a fare media e si va ad aumentare il rischio. Quindi oggi abbiamo tutti gli strumenti per arrivare a rendimenti corretti per il rischio, come si dice tecnicamente, ma non siamo abituati, ci stiamo abituando ora, perché abbiamo gli strumenti e abbiamo le competenze che forse prima non avevamo, certo. Perché prima, ricordiamoci, che 20 anni fa, 30 anni fa non avevamo completamente questi strumenti a disposizione. Dottor Guazzi, oggi la bussola del risparmiatore del Sole 24 Ore fa una pagina approfondita sul tema come investire con i tassi in risalita, bond, azioni, liquidità, le strategie di investimento con la fine dei tassi zero. Siamo alla fine dei tassi zero, secondo lei? I rendimenti sono in rialzo, anche perché, come analizza il Sole 24 Ore, ci sono cause diverse per ciascun paese. Negli USA c'è la spinta dell'economia, naturalmente, e l'attesa per la Federal Reserve. In Gran Bretagna l'impatto della Brexit, dobbiamo ancora commentare la notizia che abbiamo dato poco fa. In Europa l'ipotesi tapering, ritiro dello stimolo monetario in corso. In Italia timori per il referendum, ma come si investe con i tassi in risalita? Ma allora, se posso fare una battuta, mi sembra che i tassi siano in mini risalita più che in risalita, perché anche nonostante questi effetti di situazioni anche esterne al mondo economico, quindi che hanno influenza al mondo economico ma non sono economici, abbiamo, se non sbaglio, il decennale intorno a metà ottobre aveva un rendimento di 1,38, oggi con le notizie di allargamento dello spread si parla di 1,60-1,66. Per l'amor del cielo, è una crescita sul decennale, però non mi sembra qualcosa di impossibile. Un rendimento, diciamo, in termini assoluti, perché noi parliamo tanto di numeri, ma in termini assoluti 10.000 euro all'1,50 sono netti 112 euro. E se andiamo su 100.000 euro, una cifra più importante, siamo a 1.100 euro netti al netto delle ritenute più o meno fiscali. Questo, si sta parlando di questo, la differenza quindi di questo rialzo, certo. In 10.000 sono forse qualche decina di euro, su 100.000 euro investite forse qualche centinaio di euro. Questo è il tema. In realtà il signore che lei ha nominato prima, il nostro governatore della Banca Centrale Europea, ha parlato di tassi bassi e di misure anticonvenzionali di lungo termine. È vero che negli Stati Uniti è probabile a questo punto che a dicembre, il 14 o il 15, ci sarà un innalzamento dei tassi, ma si prevedono dei punti, non punti percentuali, ma dei quarti, un quarto, 0,15, 0,25. E poi bisogna vedere, è vero che proprio oggi ci sono notizie di diciamo segnali tedeschi contro la politica diciamo del quantitative easing, che tra l'altro è stata in ritardo di diversi anni rispetto all'America, della Banca Centrale Europea, però leghiamolo anche che noi abbiamo parlato di referendum, abbiamo parlato di elezioni americane, ma avremo le elezioni francesi a marzo, avremo l'anno le elezioni prossimo tedesche, ne abbiamo uno a ottobre, ogni per due cui mesi, la logica sempre del lungo periodo dell'investimento, secondo me, può generare tantissime occasioni, perché se no è un'attesa infinita sostanzialmente, con questa globalizzazione diventa un'attesa che non è un investimento, così come la liquidità non è un investimento, è uno stand by. Esatto, un parcheggio, come abbiamo detto più volte. Insomma, tante le implicazioni da questo ragionamento che varrebbe la pena approfondire. Dottor Guazzi, però, anche per aiutare i nostri ascoltatori, diversificare non significa solo avere più uova nello stesso paniere, esatto, cioè non bisogna avere tutte le uova nello stesso paniere, e cioè investire appunto in asset class diverse per compensare i rischi. Significa anche fare, lo abbiamo rimarcato più volte in tante puntate, pianificazione di lungo periodo su aspetti finanziari ma anche non finanziari. Allora qui veniamo anche alle caratteristiche del vostro lavoro, no? E in genere, quando, come dire, presentiamo ai nostri ascoltatori anche una carica come la sua, che è quella di cui in una banca come la vostra appunto si occupa di patrimoni importanti e magari un po' meno di quelli un po' più modesti come quello mio e di Nicoletta, insomma il tema è che voi vi occupate anche di, come dire, questioni intergenerazionali. Questo non significa che un piccolo portafoglio non debba avere a cuore le medesime problematiche. Ma è così, perché allora il wealth management è una parola inglese che vuol dire una gestione complessiva della ricchezza di una persona, può riguardare tutti. Poi nella accezione dell'industria bancaria italiana e internazionale si parla di patrimoni importanti sopra certe cifre, però la logica è molto simile, nel senso che la parte finanziaria, la nostra parte finanziaria, mi ci metto anch'io con insieme alla sua sottosegmentazione all'interno del mercato finanziario, è assolutamente quella di avere degli immobili, di avere un importo gestito, finanziato, insomma un importo liquido all'interno di una gestione di una banca, e poi di avere degli obiettivi di famiglia, obiettivi di pensione, obiettivi di protezione del proprio capitale, che hanno degli strumenti e delle eccezioni particolari sui grandissimi capitali, ma sono uguali per tutte. Noi pensiamo che sempre di più la logica della consulenza o dell'attenzione andrà intorno a queste cose, quindi ottimizzare fiscalmente e avere una visione globale è assolutamente indispensabile. Certo, ho fatto il segno di stringere, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Faremo una puntata magari solo su questi argomenti, mentre, lasciando per una volta tanto fuori i mercati finanziari. Allora, i nostri ascoltatori hanno risposto bene alla domanda. Gianpaolo da Cremona? Sì. Da quanti anni Draghi è presidente? Bravo, ottimo. La guida fiscale le arriva dritta anche in un paio di copie volendo, grazie. Per amici. Non riusciamo a commentare la decisione dell'Alta Corte sulla Brexit, anche su questo appunto ci torneremo prossimamente. Dottor Guazzi, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona giornata, noi torniamo domani. Domani ultima puntata della settimana. Alle 10:30 puntualissimo. Buona giornata a tutti.